24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è salito all'11% nel mese di aprile. A marzo scorso era del 10,9% e nell'aprile 2011 era al 9,9%. Lo rileva Eurostat, che ha registrato la perdita di 110.000 posti di lavoro in un mese e di 1.797.000 in un anno. Nell'Europa 27 il tasso di disoccupazione è al 10,3%. La situazione è più difficile in Spagna, dove la disoccupazione è ormai al 24,3%, con oltre la metà di senza lavoro tra i giovani sotto i 25 anni. La Francia, che segue lo stesso andamento dell'Italia, registra il 10,2%, più 0,1% in un mese. La Germania è in controtendenza, il tasso è sceso al 5,4%. E i dati negativi sulla disoccupazione in Europa e anche negli Stati Uniti hanno affossato le borse. Venerdì pesante sulle piazze finanziarie, Francoforte ha lasciato sul terreno il 3,42%, Parigi è andata giù del 2,21%, Londra ha perso l'1,14%, mentre a Milano il FTSE MIB si è limitato ad una perdita dell'1,04%. 3 punti percentuali persi in una settimana per Piazza Affari, che in poco più di 2 mesi ha lasciato sul terreno un quarto della sua capitalizzazione. Le tensioni nell'area euro e i segnali di rallentamento dell'economia cinese e americana, dove il tasso di disoccupazione è tornato a salire dopo un anno, hanno portato una nuova ondata di vendite. Nell'ultima seduta il FTSE MIB ha perso l'1,04% e il FTSE All-Share l'1,07%, attestandosi sui minimi di sempre toccati nel marzo 2009. Le vendite hanno colpito in modo particolare titoli industriali e anche il lusso, che era stato fra i settori che aveva retto meglio fino ad ora. Ferragamo ha perso il 5,9%, Luxottica e Todd il 4%. In controtendenza si è invece mossa Generali, più 3,3%, in attesa del CDA che potrebbe sfiduciare l'amministratore delegato Giovanni Perissinotto. I grandi soci a Mediobanca non lo vogliono più, imputandogli i risultati deludenti e il forte calo del titolo in borsa, che da inizio anno ha perso il 40% del valore e ora scambia 8,5 euro rispetto agli oltre 20 euro a cui l'avevano comprato molti degli attuali soci forti. Guido Maurino, da Radio Corp a Radio 24, il Sole 24 Ore. Tensioni sui CDS, cioè sui premi che si pagano per le polizze per assicurarsi sui rischi di Italia e Spagna. Quelli sul debito italiano sono salite 575 punti, i CDS sul debito spagnolo a 609 punti. Lo spread tra BTP e Bund chiude la settimana in calo a 454 punti. Il rendimento del decennale si attesta al 5,71%. Il differenziale della Spagna resta stabile intorno ai 530 punti, col tasso sui bonus al 6,45%. In questo scenario, una buona notizia arriva da Dublino: vittoria del sì al referendum sul fiscal compact. Sondaggi della vigilia rispettati in pieno. Gli irlandesi approvano con il 60,3% dei voti il nuovo trattato fiscale europeo, che rafforza, inserendoli nelle legislazioni nazionali, i vincoli di rigore imposti ai bilanci degli stati. Le paure suscitate dalla rabbia popolare contro l'austerity e dall'affluenza abbastanza scarsa, il 50,6% degli aventi diritto, sono state spazzate via non appena hanno preso il via i conteggi dei voti. Il sì garantisce a Dublino l'eventuale accesso ai finanziamenti a basso interesse del Fondo Salva Stati ESM, che sarebbero stati negati in caso di vittoria del no. Sebbene infatti l'Irlanda abbia fatto grossi passi sulla strada del risanamento dal 2010, quando ha avuto accesso al piano di aiuti UE-FMI da 67 miliardi e mezzo, deve ancora far fronte a un grosso debito, frutto soprattutto del collasso bancario seguito allo scoppio della bolla immobiliare. Non a caso il premier Enda Kenny, festeggiando un risultato che, ha detto, getta le fondamenta per la stabilità, ha invitato l'Europa a trovare una soluzione al problema delle banche. Michele Pignatelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino. Ci spostiamo a Milano per la storica visita del Papa, con a fianco un altro aiutante al posto del maggiordomo Paolo Gabriele, arrestato la settimana scorsa per il possesso illecito di documenti riservati. A seguire il pontefice in tutti i suoi spostamenti a Milano, l'altro aiutante, Sandro Mariotti. Qualche ritardo sulla tabella di marcia, il pontefice ha tenuto il suo discorso in una gremita piazza Duomo a Milano. Sentiamo la nostra inviata Katia Caramelli. Cori, applausi, canti, piazza Duomo ha stretto in un grande abbraccio il Papa, arrivato a Milano per il 7° incontro mondiale delle famiglie, e che a bordo della Papa Mobile ha fatto un vero e proprio bagno di folla. Nel primo discorso alla città il pontefice ha rivolto il pensiero a quanti sono nella sofferenza e tra loro ha ricordato i terremotati dell'Emilia Romagna, invitando alla solidarietà. Ma sentiamo un altro passaggio del discorso del Papa. Voi ben sapete quanto sia urgente immettere nell'attuale contesto culturale il lievito evangelico, la fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, vivente in mezzo a noi, deve animare tutto il tessuto della vita, personale e comunitaria, pubblica e privata, così da consentire uno stabile e autentico benessere, a partire dalla famiglia, che va riscoperta quale patrimonio principale dell'umanità. Al termine del discorso la piazza ha gridato: Santità, le vogliamo bene, in segno di sostegno in questi giorni difficili del Vatilix. E proprio un po' per mettere a tacere le voci che sono un po' ormai incontrollate e mandare un segnale di rassicurazione al popolo dei fedeli, Benedetto XVI ha voluto con sé qui a Milano per un'insolita lunga visita in Italia il segretario di Stato, il cardinal Tarcisio Bertone. Domenica la conclusione di Family 2012 a Brescia, con la messa del Papa alla quale si calcola parteciperanno 1 milione di persone. Grazie a Kate Caramelli. E anche il Papa, lo avete sentito, ha ricordato il sisma che ha colpito l'Emilia. Intanto l'Europa è pronta ad aiutare le imprese emiliane danneggiate dal terremoto. La Commissione ha intenzione di valutare la possibilità di offrire aiuti di Stato. E ieri, di sisma e parata del 2 giugno, ha parlato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Unità e solidarietà. Questo ci occorre per superare tutte le emergenze e le prove, come ci dicono i nostri 150 anni di storia. Libero confronto tra diverse opinioni e proposte, non vecchie contrapposizioni ideologiche. Senso dell'interesse generale, senso dello Stato, volontà di cambiamento nel grande scenario dell'Europa unita per far crescere l'economia, dare futuro ai giovani e rendere più giusta una società troppo squilibrata e iniqua. Voltiamo pagina e parliamo di calcio scommesse con le parole forti del tecnico della nazionale italiana Prandelli alla vigilia ieri sera a Zurigo di Italia-Russia. Così il tecnico azzurro Rai Sport. Siamo qui oggi per giocare una partita di calcio e se ci fanno giocare questi europei sicuramente faremo qualcosa di buono per noi, perché abbiamo lavorato, e per i nostri tifosi che aspettano il momento di vedere e di sentire l'inno nazionale. Però, come dicevo prima, se si decidesse di non partire non ci sarebbe nessun tipo di dramma. Beh, insomma, sarebbe una cosa... Per quanto ci riguarda, no. E sentiamo il commento di Carlo Genta. Il giorno della prima amichevole dell'Italia sulla strada per Polonia e Ucraina diventa quello delle sassate del CT, che poi è lo stesso Cesare Prandelli che aveva inaugurato l'era della giovane Italia del sorriso dopo la restaurazione lippiana e la triste fine dei campioni del mondo. Era tutto bello e leggero, quasi facile, come una qualificazione europea raggiunta in punta di piedi. Chissà se Cesare aveva messo in programma il fatto che da noi l'estate è il tempo delle mele, sì, quelle marce. Chissà se in qualche notte da incubo si sarà visto pronunciare quelle parole. Se ci dicessero che per il bene del calcio dobbiamo stare a casa dall'europeo non sarebbe un problema. No, non sarebbe un problema, ma la fine di tutto è il trionfo delle voglie di Mario Monti. Chiusa la baracca a casa i burattini. Ma il ministro Cancellieri si affretta a dire che, per carità, agli europei ci andiamo e forza Italia. Qui non si tratta di 40 sfigati, come aveva detto il CT, ma di un processo pubblico che fa molto rumore e molto male, nel quale ogni spiffero diventa una sentenza ed è meglio non fidarsi di nessuno. La mano sul fuoco, dunque, non la mettiamo neanche per Mimmo Criscito, che pare proprio un bravo ragazzo e che sembra anche sincero quando dice: non c'entro niente e hanno avuto troppa fretta di lasciarmi a casa. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Calano le esportazioni di vino italiano nel mondo, ma non ovunque allo stesso modo. Soffrono soprattutto le esportazioni verso gli altri paesi europei, ma ai nostri concorrenti non va molto meglio. Sentiamo Giuseppe Martelli, direttore di Assoenologia, al microfono di Davide Maria De Luca. Il nostro principale mercato a livello europeo rimane la Germania, seguita ovviamente dal Regno Unito, però sono mercati dove tutti arrivano e quindi sono terreni di conquista abbastanza facili e consolidati. Mentre il vino italiano è primo in termini di volume nel mercato statunitense, che è un mercato vastissimo e soprattutto che ha ancora molte potenzialità di crescita. Sempre molto interessanti rimangono in scala il mercato canadese e il mercato giapponese. Ovviamente l'area BRIC è un'area che ci sta dando decisamente soddisfazioni, però siamo agli inizi e quindi bisogna seminare, costruire, credo, più che conquistare. Quindi anche nell'export del vino si riesce a notare una stagnazione o comunque una difficoltà in quella che è l'area europea? Ebbene, sicuramente la crisi c'è, si sente e si vede. Il vino, come qualsiasi altro prodotto ormai diventato genere voluttuario, è una delle prime voci che vengono tagliate da chi non può permettersi o perlomeno abbattute in termini di valori, cioè di spesa. Anche gli altri produttori UE incontrano le stesse difficoltà? Ah, sicuramente. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadori in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.